Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vi dico già, visto che ne hanno parlato anche i nostri GR24, che toccheremo il tema Ryanair, che molto sta agitando giustamente anche i viaggiatori di mezza Europa. Domani però Due di Denari con Mauro Meazza e Deborah Rosciani avrà una puntata apposita sui diritti a questo punto dei clienti di Ryanair, che si sono visti cancellati centinaia. Sono 400.000 i passeggeri che avranno il volo cancellato. Ne parleremo sulla parte di cronaca domani. Ripeto, Due di Denari avrà un approfondimento anche sui diritti dei passeggeri, anche perché per esempio i consumatori spagnoli hanno preso una posizione dura, chiedono rimborsi anche molto salati da parte di Ryanair. Parleremo invece della manovra e della congiuntura, perché oggi si sta ancora tenendo qui al Sole 24 Ore nell'auditorium l'assemblea annuale di Federacciai, e sarà l'occasione appunto per fare il punto anche sul settore dell'acciaio, alla presenza, oltre che del presidente Federacciai Gozzi, del sottosegretario Boschi, del presidente di Confindustria Boccia e del presidente europeo Tajani. Perché lo dico? Perché il sottosegretario Boschi oggi, già in mattinata ad un convegno, ha annunciato che l'anno prossimo vi sarà, e quindi già nella manovra che si sta approntando, i miliardi di recupero dall'evasione passeranno da 11 del 2014 ai 23 di quest'anno, e questo, diciamo, sarà all'interno della manovra, garantirà maggiori margini, e ha detto anche è allo studio un'estensione dello split payment. Nel giorno in cui l'Istat diffonde i dati sull'export, molto buono anno su anno, luglio più 5% su luglio di un anno fa, il surplus è calato a 6,6 miliardi, ma da inizio anno abbiamo fatto 25 miliardi e 600 milioni di surplus commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo. E anche su questo ci sono varie dichiarazioni. Il presidente del Confindustria Boccia ha chiesto di concentrare nella manovra finanziaria, di scegliere sulle priorità. Oggi sul Sole 24 Ore sono presenti le priorità per il governo, secondo quello che è il ragionamento, le priorità di carattere economico-industriale per il governo, in fase di sviluppo della manovra finanziaria. Parleremo anche della siderurgia, le banche, perché questa mattina si è discusso anche della situazione degli NPL, non performing loans, per quello che riguarda quindi le sofferenze bancarie, e sarà oggetto di nostro approfondimento. La borsa nella ripartenza della settimana, siccome venerdì abbiamo avuto tanti temi, una classifica particolarmente lunga, oggi recupereremo l'intervista con la startup, il caso virtuoso. Dicevo, la borsa oggi più 0,60% Milano, più 0,20% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,35% Londra e più 0,35% anche il Dow Jones. Di negativo oggi c'è poco: Eni meno 2,1%, A2A meno 1,60%. Per quello che riguarda il petrolio, devo dire che non ci sono novità, è a $49,8 al barile, stabile sostanzialmente. Bene, Telecom Italia più 4,30, Ferrari più 2,40, STMicroelectronics più 2, Saipem più 1,70, Fiat più 1,5 come Azimut, Leonardo più 1,30 come Generali, e Ferragamo fa l'1,20%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e come sempre la diretta anche sul canale Facebook. Allora, le notizie in breve. Allora, giustamente qualcuno mi dice startup, export, split payment, quando la finite con gli inglesismi? Io cerco di ridurli al massimo. Export, obiettivamente si può chiamare esportazioni, ma startup si può correggere, sono le imprese nuove, appena nate. Split payment è un linguaggio fiscale, comunque vi arriveremo anche dopo. Invece, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, gli Stati Uniti oggi hanno ribadito il loro ritiro dall'accordo sul clima di Parigi, a meno che non vengano rinegoziati termini più favorevoli agli Stati Uniti stessi. Il Bitcoin, che molti di voi, su cui molti di voi continuano a scrivere, non posso fare ogni volta un approfondimento, oggi è rimbalzato, comunque era scivolato sotto quota $3,000 dopo essere arrivato a 4.200, 4.300, 4.400 dopo la decisione di alcuni operatori cinesi di bloccare a fine mese le operazioni in Bitcoin. Ricordo che il 70% delle transazioni riguardano proprio la Cina. Oggi è rimbalzato dai $3,000 a $3,950, però insomma, questo dovrebbe fare capire chi ascolta non che non si deve investire in Bitcoin, uno può fare quello che vuole nella vita, ma che si tratta soprattutto di un bene o di uno strumento di investimento altamente speculativo e altamente rischioso, più che l'acquisto di una valuta vera e propria, viste le oscillazioni. Mi chiedete di Ryanair, Ryanair sta perdendo, e anche parecchio, è arrivata a perdere fino al 5% in borsa con lo stop dei voli. Guardate che l'Unione Europea ha detto: ci aspettiamo che Ryanair rispetti le regole sui diritti dei passeggeri, quanti operano nell'Unione ne seguono i criteri. La parte interessante è che tutto questo non sta capitando per uno sciopero selvaggio, non sta capitando per un errore, per un problema tecnico, no, sta capitando perché hanno calcolato, la dico male, poi vi arriviamo in maniera più approfondita, hanno calcolato male lo scarico delle ferie e i turni, perché il personale di volo non è vincolato al diritto irlandese. La Corte di Giustizia ha stabilito la competenza come diritto presso la base in cui prendi servizio, e questo ha creato un caos totale. Entro fine anno devono andare a scaricare, lo dico male, insomma, queste ferie, ne parleremo. Euro su dollaro, giustamente mi chiedete, a quota 1,1956, quindi poco mosso. Allora, partiamo con i primi temi, quindi situazione congiunturale dell'economia italiana, ma anche situazione delle sofferenze bancarie. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Prima però una notizia che riguarda la cronaca, anche se non voglio anticipare la poco invidiabile classifica del venerdì. Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone, ha aperto un'inchiesta sull'ATAC. Voi direte: dov'è la notizia? No, ha detto che sono state violate le norme sia sull'appalto della mensa e tutta la parte del dopolavoro, sia le... c'è un omesso controllo dell'azienda sul contratto per la fornitura degli pneumatici. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che già facemmo notare che prima dell'arrivo del mitico commissario, poi Mantovia Rettighieri, tra il 2013 e il 2015, a fronte di un contratto full service da 8.800.000 euro per le gomme, l'ATAC ne ha sborsati 16 milioni. Dice: come mai 8 milioni in più? Perché su 12.000 pneumatici in 3 anni ne sono stati sostituiti 11.400 per usura e 15.370 per rottura. Ora è vero che le strade di Roma sono disastrose, però insomma il fornitore in sede di gara aveva garantito almeno 130.000 chilometri, qua riescono a farne sennò 45.000. E poi... nel solo ultimo anno precedente al rinnovo contrattuale, il 2012, furono sostituite 10.000 gomme per usura e 8.500 per rottura e altre 5.000 gomme termiche, altri 2500 pneumatici già pagati. Ripeto, qual è il problema? Beh, tra l'altro che era venuto fuori che la ditta appaltante aveva un parente dentro, dentro l'ATAC, lo so. Ma soprattutto quando arrivò Rettighieri si ridusse moltissimo l'usura delle gomme, incredibilmente, e anche i furti si ridussero dentro l'ATAC, perché il fondatore dell'ATAC in questione si chiamava Gommeur. E il funzionario dell'ATAC che la dirige è Roberto Alviti, da tempo in aspettativa proprio con l'ATAC. Poi gli è arrivata una lettera di licenziamento, e ha detto: ma perché mi mandate via? Forse perché sei tu quello che ha l'appalto per fornire l'ATAC e sei anche un dipendente in aspettativa. Solo all'ATAC può capitare una cosa del genere, la municipalità di Roma, dove i sindacati da sempre gestiscono mensa, dopo lavoro, addirittura le macchinette per le merendine. E al di là delle 111.000 ore di agibilità sindacale e dei 131.000 permessi retribuiti, praticamente ci sono 82 persone al giorno che per permessi sindacali non vanno al lavoro all'ATAC. 82. Gestiscono le 18 mense, incassano dall'azienda i sindacati 4.200.000 euro l'anno. E l'ATAC mette a disposizione gratis i locali, paga la luce, gas e pulizie, e il dopolavoro gestisce anche i bar aziendali e 151 distributori di bevande e snack. Dice semplicemente Cantone, visto, è dal 74 che va avanti così, che onestamente bisognava fare una gara in violazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici con possibile danno all'erario. E poi Cantone evidenzia l'omesso controllo dell'ATAC sul contratto siglato con Gommeur. Che ha contribuito a determinare la rilevante esposizione debitoria dell'azienda nei riguardi dell'operatore, aggiungo io, che era anche un dipendente in aspettativa. Ma parliamo di notizie positive, va là. Che allora il commercio con l'estero, dicevo, più 5% a luglio rispetto a un anno prima, bene, Stati Uniti più 10%, Regno Unito più 8%, tutti i raggruppamenti sono in crescita. Se andiamo all'anno più anno, chimico, medicinale e botanico più 23%, autoveicoli più 14%, prodotti chimici più 8%, prodotti alimentari, bevande e tabacco più 8%. E da inizio anno a questo punto siamo a un più 7,6% dell'export. Il presidente Confindustria qui a Sole 24 Ore, a margine dell'assemblea di Federacciaia, ha detto appunto: dai dati sul commercio con l'estero confermano e si conferma la capacità di reazione del sistema paese di quello industriale. Adesso bisogna, in fase di definizione della legge di stabilità, scegliere le priorità e andare, per quello che è il suggerimento di Confindustria, come priorità sull'occupazione giovanile. Occorre un grande piano di inclusione dei giovani. Ascoltiamo Boccia al microfono della nostra Anna Marino. Va visto, diciamo, in termini congiunturali, c'è, cioè, un turismo che cresce, i dati poi vanno visti sempre a consuntivi, comunque un più 5% significa in proiezione in valore assoluto più 20 miliardi di euro di export. Evidentemente continua a confermare il fatto che la capacità di reazione del sistema industriale c'è e occorre continuare sulla strada che abbiamo tracciato. Per quanto riguarda i giovani, ieri Poletti ha annunciato misure più forti anche per quelli del sud, che cosa ne pensa? Vediamo, stanno lavorando al governo, la proposta nostra la conoscete, a nostro avviso occorre un grande piano di inclusione dei giovani, il divario è alto tra giovani e società, speriamo che il governo trovi una buona soluzione. Che cosa si aspetta dalla legge di bilancio? Lo abbiamo detto, la legge di bilancio non ci dà grandi aspettative, i margini di manovra sono stretti, l'importante è non smontare le riforme fatte, fare un altro passo a nostro avviso sul piano di inclusione giovani, che significa includere giovani nel mondo del lavoro, ma rendere anche più competitive le imprese che assumono e prepararsi poi a un piano di medio termine per il Paese in cui la politica economica metta al centro la questione industriale del Paese. Secondo il Ministro Boschi, nella legge di bilancio c'è poco spazio per ridurre le tasse, l'Europa non consente flessibilità, è meglio usare prudenza, è così? Mi sembra un termine di buon senso e di saggezza, bisogna fare i conti con la realtà che abbiamo di fronte e fare delle poche risorse che abbiamo, usarle nei nodi di sviluppo che abbiamo sempre definito. Cioè, è arrivato il momento in cui nel Paese occorre scegliere le priorità su cui puntare e non fare un poco per tutti. E allora sempre sui poi qualcuno mi sta scrivendo come va la siderurgia, ne parleremo più avanti col presidente Gozzi, presidente del Federacciai. Comunque l'acciaio nei primi 7 mesi ha fatto più 2% di produzione rispetto all'anno scorso. Noi restiamo sostanzialmente il secondo paese europeo come produzione di acciaio e siamo nella top 10 come produzione, siamo al decimo posto a livello mondiale. Allora, dicevamo delle banche. Questa mattina all'Università Luiss di Roma il convegno sul rilancio del sistema bancario italiano in Europa. E allora il membro del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, oggi intervenuto, lui si chiama Ignazio Angeloni, ha detto: guardate, la situazione in Italia ha fatto un cambio di rotta netto sulla parte non performing loans, sofferenze bancarie, ma l'importante è non sedersi. C'è stato un miglioramento dei crediti deteriorati, quelli che non riescono più a essere recuperati, ma resta ancora molto da fare. Come utilizzare questo momento favorevole? Ecco, anche questo è stato già detto, non sedendosi sugli allori, non credendo che il peggio è passato, quindi si può continuare, ma traendo nuova energia e coraggio per perseguire lungo la strada, che è quella giusta, la strada che le banche italiane, che le banche europee, le banche italiane in particolare stanno perseguendo, è quella giusta. E bisogna accelerare, bisogna continuare questo percorso. La Banca Italiana ha fatto un percorso notevole, lo voglio dire qui oggi, anche perché molto spesso ci si sofferma sulle critiche, sui problemi, sulla Banca Centrale Europea che interviene di qui e di là, però noi lo vediamo, c'è stato un miglioramento netto. Abbiamo visto di nuovo nella solidità patrimoniale, dal lato del passivo, rapporti di capitale, dal lato dell'attivo, crediti deteriorati. Nell'ultimo anno in particolare c'è stata un'accelerazione. Abbiamo visto a livello di sistema Italia, siamo passati, se guardiamo le crediti deteriorati lordi cosiddetti, cioè non al netto degli accantonamenti, siamo scesi dal 15 al 12%, quindi un progresso veramente notevole. Restiamo sul tema del non performing loans, delle sofferenze bancarie. Ha detto sempre Angeloni, le banche medio-piccole sono importanti in Italia, in Germania e in Austria, vanno guardate in Italia, Germania e in Austria, vanno guardate con molta attenzione non solo per i legami con il tessuto produttivo locale, ma anche per le tipologie di rischio che si annidano nel radicamento sul territorio che è loro proprio. Traduco: questo rapporto col territorio delle banche locali, che siano le sparcasse tedesche o che siano le popolari italiane, è assolutamente vitale. Però questo legame molto forte col territorio può essere un'arma a doppio taglio, cioè può essere un aiuto quando la banca invece più grande, anche di dimensioni internazionali, ti capisce e legge meno il territorio, ma può anche essere, come abbiamo visto nel caso di molte popolari, alcune popolari, Vicenza, Veneto, su tutte, può essere anche frutto di commistioni, di un sistema dove tutto si tiene e poi tutto crolla assieme. Le banche medio-piccole sono importanti in Europa e sono importanti soprattutto in 3 paesi, in Germania, in Italia e in Austria. Sono paesi in cui a un settore di banche di piccola e media dimensione corrisponde un settore produttivo non bancario anche di piccola e media dimensione, quindi le banche medio piccole servono l'economia delle imprese medio piccole. Vanno guardate con molta attenzione. Noi come vigilanza europea abbiamo un controllo solo indiretto, noi non abbiamo responsabilità di vigilanza diretta su queste banche medio piccole, lo facciamo cercando di dare delle linee guida alle autorità nazionali che lo fanno, quindi abbiamo meno strumenti. Però è un settore molto importante per la sua rilevanza economica e anche molto importante perché diverse tipologie di rischio si annidano in questo settore. E voglio dire che molte di queste banche, non solo in Italia, sono le cosiddette banche radicate al territorio. Noi abbiamo in Italia per tanti anni tessuto le lodi della banca radicata al territorio, ma la banca radicata al territorio c'è anche dei rischi. di solito sono banche in cui il pool dei depositanti, quello degli investitori e quello degli affidatari, questi tre gruppi tendono a confondersi, tendono a coincidere. Questo dà luogo anche a conflitti di interessi, a difficoltà, eccetera, che è difficile da controllare, che poi possono dare luogo anche ad irregolarità vere e proprie, conclamate, che abbiamo visto, come per esempio il finanziamento delle azioni di acquisto di azioni. E poi sempre in tema delle banche piccole, lo stesso Angeloni ha detto che bisogna guardare con grande attenzione dal punto di vista della vigilanza. Stiamo lavorando con la Banca d'Italia perché, insomma, non è un mistero che tutti i grandi problemi bancari degli ultimi anni, ad eccezione fatta per il Monte dei Paschi di Siena, dove però, ripeto, lì la situazione non è tanto di legame col territorio, è da quello che abbiamo visto, l'indagine, di manipolazione, di operazioni rischiosissime che poi si sono rivelate fatali per mascherare perdite dovute in primo luogo all'acquisizione di Anton Venta, che non si è mai capito perché l'abbiano pagata in maniera stratosferica al Santander. E questo è un problema, da quello che abbiamo visto, di gestione e di cercare di mascherare, di recuperare le perdite con operazioni rischiosissime e anche tangenti del 5%. Tutto il resto dei grossi problemi sono arrivati proprio dalle banche del territorio. Uno mi potrà rispondere, sì, ma i grandi gruppi hanno fatto aumenti di capitale monster. È vero, ma li hanno fatti, non hanno avuto problemi a farli e hanno messo a posto, diciamo, quello che era il patrimonio rispetto alle sofferenze. Il crollo vero e proprio, cioè i soldi pubblici in parte usati per salvare le banche popolari, sono solo su banche piccole del territorio, medio piccole come Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Anche Menzo Padoan è intervenuto al convegno della LUISS e ha detto sul tema delle sofferenze bancarie: siamo a un punto di svolta, ma il cammino resta lungo. Per quanto riguarda la creazione di nuove sofferenze bancarie, cioè di prestiti che si incagliano e poi non diventano più restituibili, stiamo tornando ai livelli pre-crisi. Siamo sulla buona strada. Le misure di riforma e di intervento specifici hanno ridotto, in alcuni casi eliminato, le maggiori fonti di rischi potenziali. Il sistema finanziario italiano si trova ora a un punto di svolta, ma bisogna continuare su questa strada e il cammino resta lungo. Vorrei chiarire che non cambio la mia idea. Mettiamoci però d'accordo se andiamo nella direzione giusta. Naturalmente la velocità è sempre insufficiente e la strada resta lunga. E sempre il Ministro dell'Economia sugli ulteriori passi da compiere a sostegno del sistema creditizio, così Padoan. Il completamento dell'unione bancaria deve fare decisi passi avanti, già nella comprensione dei problemi concreti che la sua implementazione potrà comportare, che nella sua architettura istituzionale. Deve essere introdotto il fiscal backstop, il fondo di risoluzione. Deve essere introdotto un meccanismo di assicurazione dei depositi. Questi passi richiedono di proseguire in parallelo nella riduzione e nella condivisione dei rischi. Ritornare a una condizione di normalità dei sistemi bancari richiede ovviamente liberare i bilanci bancari di sofferenze in eccesso. Le autorità europee stanno definendo un quadro che permetta di accelerare questo processo. Questo è possibile e desiderabile, soprattutto in un quadro macroeconomico più favorevole. È altrettanto importante che questo processo di transizione sia definito e implementato in modo ordinato e tale da evitare shock al mercato delle sofferenze che si va consolidando. Si tratta di evitare, insomma, che una strategia di riduzione del rischio finisca per produrre risultati opposti. Infine un commento anche della Presidente della LUISS, nonché Presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia. Dati del governo, dati del governo e dati economici, ma anche in questo caso l'accento viene messo sui nodi che restano da sciogliere, e quindi disoccupazione, giovani e produzione. Tante cose sono state fatte, è vero, oggi il sistema è più solido, abbiamo anche qualche ultimo dato che evidenzia che c'è un pochettino più di erogazione del credito, però c'è ancora tutto il tema, diciamo, dei crediti, non, i cosiddetti non performing loan, cioè i crediti deteriorati, che sono ancora nelle pance delle banche, quindi aspettiamo una regola europea per poter liberare le banche da questo, perché questo permetterebbe alle banche di fare più erogazione del credito. Bisogna cambiare alcune regole europee, quelle dei bail-in, quelle diciamo sui salvataggi delle banche, abbiamo visto che sono state troppo restrittive in alcuni casi e anche sbagliate. Non abbiamo bisogno di troppa regolamentazione, abbiamo bisogno di regolamentazione chiara ma non troppa, e poi comunque abbiamo bisogno di più crescita in generale, senza crescita ovviamente diventa anche difficile fare questo. Adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi i primi temi di approfondimento. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Vedo alcuni messaggi. Il Monte dei Paschi è costato più di 20 miliardi. Sì, io non ho detto che il Monte dei Paschi è costato, o meglio, è entrato lo Stato nell'azionariato del Monte dei Paschi e quindi per ora parte dei nostri soldi è impegnata come azionista del Monte dei Paschi. Lo dico perché anche per le banche, alcune banche anglosassoni si fece così, penso alla Bank of Scotland e non solo, per non parlare di Northern Rock e quant'altro. E poi bisogna vedere quanto, in alcuni casi il governo americano e anche britannico ci guadagnò pure quando uscì, perché si era rialzato il valore del titolo, ma non so se sia questo il caso nel Monte dei Paschi, che nessuno sta negando sia stato un bubbone enorme. Ho solo detto che lì c'entrava poco, a mio avviso, in senso stretto, il legame con il territorio, per quanto insomma la banca mamma da mungere in tutti i modi, anche quello valeva. Altra cosa invece sono le popolari e i legami che abbiamo visto, prestiti ingiustificati, prestiti baciati, clienti trattati in maniera diversa, titoli non quotati e quindi facilmente pompabili. Non sottovalutate questo aspetto. Monte dei Paschi, con tutte le cose che sono successe lì dentro, era quotato in borsa. Per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca siamo andati avanti a sentirci dire che non serviva andare in borsa, le banche erano solide del territorio, che i 67 euro o i 42 euro valevano il valore della banca, e nessuno poteva mettere becco, perché quando te lo fai, te la dici, te la racconti e non c'è un mercato che su questo compra o vende, è difficile poi capire. Ecco perché mi sembrava anche una follia la non quotazione. Comunque andiamo sul meteo e la pubblicità e poi prima di arrivare alla borsa, questa vicenda di Ryanair che ha dell'incredibile. Devo dire, a me non ne frega nulla di Ryanair, di Alitalia, sapendo quanto il numero uno di Ryanair, O'Leary, fa una cosa che si chiama a Bologna, uno che si dà un po' di aria, non voglio dire parolacce in onda, finisce perone, insomma, stavolta ha preso una bella musata. 349-238-6666 per sms e whatsapp, inizia per S e finisce perone. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti. Allora, ecco, qualcuno ha capito, non era squaccherone, è SB e finisce in one. Quando uno a Bologna, in Emilia soprattutto, tira un po', fa insomma quella roba lì, si dà molte arie. Perché lo dico? Perché O'Leary ci ha abituato a fare gradasso quando fa le pubblicità, quando dice mi compro all'Italia a pezzi, solo long haul, tutto quello che gli sta succedendo. Io non sto godendo, lo dico a altri ascoltatori, figuratevi. Però faccio notare che tutti, per me questa o quella Parisson modello Rigoletto. E quindi, così come critichiamo l'Italia, critichiamo anche la Ryanair nel momento in cui ci stanno scrivendo ascoltatori che hanno fatto Trapani-Bergamo in 21 ore di autobus causa cancellazione. La situazione è serissima, non solo perché il titolo ha perso il 5% in borsa, uno può dire chi se ne frega, no. Il problema è che sono stati cancellati per ora voli per 400.000 passeggeri E ricordo che Ryanair è la prima compagnia europea per numero di passeggeri, trasporta 12 milioni e 300 mila persone all'anno e ha 6 miliardi e 600 milioni di giro d'affari, con un utile netto, che paga tutto praticamente a Dublino, di 1 miliardo e 300 milioni. Che cosa è successo? Le azioni erano aumentate all'inizio anno del 18%. È successo che venerdì Ryanair manda fuori un comunicato che minimizza un po', dice: abbiamo intenzione di annullare tra i 40 e i 50 voli al giorno, che è una roba mica da poco, per 6 settimane, quindi fino a 2100 voli fino alla fine di ottobre, per migliorare la puntualità. E dice: beh, interessante il principio, sembra un po' il marito cornuto che si taglia, cioè per migliorare la puntualità tu cancelli il volo, così sicuramente non arriva in ritardo. E già sembrava un po' un comunicato da ufficio stampa. La puntualità è scesa al 18,80% per una combinazione di ritardi e scioperi dei controllori di volo, del maltempo e dell'impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti ed equipaggio di cabina. Ora, in realtà, dicevo, cancelli 40-50 voli al giorno per 6 settimane per migliorare la puntualità per il maltempo, sono cose che gestisci, chiaramente sono emergenze. In realtà c'è altro, a parte il fatto che venerdì scorso c'è stato un incidente all'aeroporto di Stansted dove un Boeing Ryanair ha perso le due ruote anteriori. Per fortuna la bravura del pilota dopo il decollo ha fatto un atterraggio in emergenza perfettamente riuscito. In realtà nasce il sospetto che qualcos'altro si stia sviluppando, e viene fuori che c'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha detto sostanzialmente che il trattamento lavorativo del personale di Ryanair non è vincolato dal diritto irlandese, ma dal diritto dei paesi dove svolgono l'attività, che di solito sono più favorevoli ai lavoratori rispetto all'Irlanda. Quindi, primo punto, cara Ryanair, visto che hai lezioni in tutto il mondo, sfotti tutti, fai cartelloni. Il comunicato di venerdì, che per migliorare la puntualità, per il maltempo, per i ritardi, per gli scioperi, per le ferie ai piloti, all'equipaggio, ma le ferie si sanno di solito in un posto di lavoro, mica le scopri all'improvviso, devi cancellare 60 voli al giorno, a noi ha ricordato una cosina, ogni tanto rispunta fuori. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Soy el fuego que... Riccardo Barlam del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che cosa, per carità, alcune di queste motivazioni saranno sicuramente valide, ma sono scuse parziali. Che cosa è successo in realtà per mettere in ginocchio Ryanair e bloccare 400.000 passeggeri? Diciamo che è stata una situazione decisa e forse gestita male come comunicazione. E tutto è cominciato, come tu hai ricordato, giovedì scorso, quando c'è stata questa sentenza arrivata la sera, Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo, il massimo, diciamo, tribunale del lavoro che tutela i diritti sindacali, che ha stabilito che appunto tu chiedi ai piloti di fare dei turni massacranti, di fare non so quanti voli al giorno, di non fare le ferie, così finora nessuno di questi poteva avere nessun diritto perché il tribunale irlandese era favorevole alla compagnia irlandese, che ricordiamo è il primo vettore europeo. In realtà fa 12 milioni al mese, quindi sono al mese, 100, sì, scusami, ho sbagliato io. No, anch'io non ho sbagliato, quindi è un colosso. E cosa è successo? Questa sentenza, secondo diversi osservatori, cambia un po' le regole del gioco, perché finora sia i consumatori che i dipendenti, nel momento in cui appunto chiedevano il rispetto delle normative europee, questi qui avevano diritto a andare nei tribunali di Dublino, e quindi chi se ne fotte delle normative europee. Adesso non sarà più così. Primo ecco problema. Dopo il traffico vorrei capire che cosa cambia, perché quando tu mi dici, io non posso fare sentire Belushi ogni volta in Blues Brothers quando spiega perché ha abbandonato la sposa, diciamo, all'altare, ma se tu mi dici sì, ci sono il maltempo, le cavallette, appunto la puntualità da migliorare, e l'impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti di equipaggio di cabina. Lì per lì uno può pensare che il tuo ufficio del personale sia impazzito, che nessuno sapesse più quando mandare in ferie i piloti. E emerge invece, poi ce lo spiegherai meglio dopo il traffico, che il problema è questo, cioè tu devi ridefinire sulla base del diritto tedesco, del diritto francese, del diritto italiano, quando uno ha diritto alle ferie, quanto come alle ferie, allora lì non è un problema di... Anche di salari, eh? Non è un problema di... Hai calcolato male quando mandarli in recupero ferie. Il problema è che ti sta saltando il meccanismo. Vorrei capire se è così dopo il traffico. Focus Economia. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. E visto che rivolevate Belushi, avete riavuto Belushi. Riccardo Barlam, adesso a parte gli scherzi, questo, cioè, Ryanair ha capito più o meno, intanto qualcuno mi scrive come sulla la concorrenza sleale, sulla tassazione per le... Allora, un po' diverso, perché qui c'è un problema di web tax, se vi riferite a Apple, Facebook, Twitter e quant'altro, però è vero che l'Irlanda gioca molto su questo dentro l'Unione Europea, su regole. Uno dice, beh, non mi volete elevare Ryanair? Nessuno vuole elevare Ryanair, né EasyJet, né tutti i vettori low cost, né Vueling, che più o meno low cost, beh, figurati, però avere più o meno le stesse regole per tutti, perché non ci può essere un paese come l'Irlanda che, diciamo, diventa la terra del Bengodi sul fronte dei diritti sindacali e della tassazione. O le estendiamo a tutti, o anche l'Irlanda in qualche modo si adegua. Comunque, guarda caso, è l'Irlanda e il Lussemburgo che non vogliono la web tax, diciamo così. E certo. Sono loro che non vogliono. Però insomma, questo adesso che cosa potrebbe comportare? Allora, intanto loro dicono che rimborseranno i voli cancellati, che ricordiamolo saranno 2100 fino a fine ottobre, hanno cominciato con domenica e hanno cancellato 82. Io ti posso dire che non è così, perché un mio collega di tavolo ha ricevuto un sms, lui era a Brindisi, giovedì sera, quindi prima della comunicazione di Ryanair, che diceva che il volo era cancellato, non gli hanno proposto nessuna alternativa, non c'è stata nessun tipo di assistenza. Lui, per tornare da Brindisi a Milano, ha speso con la moglie 800 euro, una roba così, tra taxi, la macchina da riprendere a Bergamo, i voli all'Italia, e non tutti riescono a permettersi Io ho visto che l'associazione dei consumatori spagnoli sta intervenendo in maniera molto dura, perché tutti i paesi europei sono colpiti, ha detto qui c'è un diritto e domani se ne occuperà, ripeto di nuovo, due denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I diritti dei viaggiatori, vale sempre, vale anche in questo caso, hanno chiesto rimborsi che oscillano tra i 200 e i 400 euro a biglietto. Esatto, tra l'altro non rimborsano le tasse aeroportuali Ryanair, ma solo il costo del biglietto, che è ridicolo rispetto al costo di un vettore tradizionale. E oggi c'è anche la notizia che le associazioni europee dei consumatori, quelle italiane, quelle spagnole, ok, hanno messo in mora Ryanair, e quindi insomma la cosa diventa un po' più complessa, e ci sono tutte le associazioni dei consumatori che danno assistenza legale gratuita, quindi io invito anche chi si trova con questi danni a informarsi, insomma ce ne sono diverse, e così. E qui e domani, soprattutto, aggiungo io, ma in palese conflitto di interessi, ascoltare due di denari con la coppia, con la mitica coppia che vi racconterà tutti i diritti e i doveri delle compagnie in questo caso. Qualcuno mi scrive, inutile che lei sfotta Ryanair. No, guardi, io non sfotto i diritti in Irlanda, ho detto semplicemente che non si può tenere assieme un'Europa in cui il fisco, gli stati dentro l'euro si fanno concorrenza in base alla parte fiscale, vabbè, allora decidiamo, e anche in cui i diritti dei lavoratori, cioè il pilota tedesco, il pilota spagnolo, il pilota italiano e l'assistente di volo ha dei diritti, la compagnia aerea ha dei doveri nei suoi confronti, in Irlanda arriva la deregulation, se vogliamo tenere assieme, non che tutti debbano fare la stessa cosa, né che ci si debba avvicinare alla parte alta, cioè la tassazione italiana e la legislazione italiana, dico solo che ci vuole un pochino di omogeneità e uniformità. Grazie a Riccardo Barlam, andiamo sulla borsa. Oddio, qualcuno mi scrive che brutta la concorrenza. No, guardate che noi la concorrenza l'abbiamo difesa in tutti i modi possibili, anche nella vicenda Uber Taxi, quando, visto che chi mi scrive è un tassista, a parità di campo da calcio, a parità di condizioni di gioco, non è concorrenza se uno le tasse le paga, diciamo, in maniera irrisoria e l'altro deve pagare qui. Quella non è concorrenza, quelle si chiamano diversi. Si chiama porta da calcio più piccola rispetto a quello che ce l'ha più grande, ok? La concorrenza va benissimo a parità di condizioni, di norme. Ci sentiamo dopo il GR24 per commentare la borsa, i dati Federacciaia e la startup, borsa che ha chiuso in rialzo dello 0,60% Milano, più 0,30% Parigi come Francoforte, più 0,50% Londra, più 0,30% anche il Dow Jones. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. To let myself flow, to let myself flow. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa oggi dovete accontentarvi di me, poi la startup e poi il mondo dell'acciaio. E dicevo, più 0,60% oggi, con in evidenza, grazie tra virgolette anche all'ipotesi lanciata da Sole 24 Ore sul ragionare ancora su uno scorporo della rete, dicevo, in evidenza Telecom Italia più 4,70%. Qualcuno mi chiedeva di Eni. Beh, Eni ha un caso specifico perché ha staccato l'acconto sul dividendo ed è il motivo per cui il titolo cala del 2,50% dopo lo stacco, non della, di tutta la cedola, ma di un pezzo del dividendo, e l'acconto appunto, quindi scende solo per ragioni tecniche, cioè si è riposizionata al valore dello stacco parziale della cedola. A2A meno 1,60, Moncler meno 0,50%, lì si inizia a fare qualche ragionamento su Moncler, molto esposta ai mercati area dollaro, sull'impatto dell'euro. L'euro anche oggi a quota 1,1924, quindi non è sopra 1,20, non è in rafforzamento, ma non è neanche in calo, resta su livelli relativamente alti. Tra i titoli che vanno bene, dicevo, oltre a Telecom e Ferrari, anche ST Microelectronics più 2,20%, Leonardo più 1,80%, bene anche Saipem più 1,5%. Qualcuno ricorderà che venerdì scorso dalla Russia è arrivata la notizia che Saipem è stata incaricata da Rosneft, il gigante energetico russo, di realizzare uno studio di fattibilità per un nuovo impianto in Russia, e sulla notizia si è mosso il titolo. Leonardo ex Finmeccanica più 1,80, Fiat Chrysler più 1,60, i dati sulla produzione auto continuano a essere buoni, e ancora Case New Holland più 1,30, Azimut pure, Exor anch'esso in rialzo l'1,30%, come le generali. Migliori e peggiori, Isagro più 17%, Club più 14,5%, e poi il fronte opposto invece vede Esprinet meno 15%, Innovatech meno 6,60%, Visibili Editore meno 6,20%. Riprendo di nuovo, buonasera a Pierluigi Paracchi, fondatore e amministratore delegato di Genenta, che non siamo riusciti, diciamo, a intervistare venerdì, avevamo la classifica particolarmente lunga, e poi Luigi Zingales sulla commissione d'inchiesta sul mondo bancario. Buonasera Paracchi. Sì, buonasera. Allora, cosa fa Genenta, quando è nata, chi vi ha aiutato? Va bene, allora, noi ci occupiamo di terapia genica per la cura dei tumori. Nasciamo nell'ambito dell'attività di ricerca dell'ospedale San Raffaele, nasciamo a metà del 2014 sugli studi fatti dal professor Luigi Naldini, che è il direttore del laboratorio del Dipartimento di Terapia Genica dell'ospedale San Raffaele, Teletron Institute for Gene Therapy. E chi vi ha aiutato e come pensate di fatturare? Avete dei brevetti? Sì, abbiamo un portafoglio di brevetti, 5 brevetti. È stato fondamentale l'apporto nel 2015 di 10 milioni di euro che sono arrivati da un gruppo di imprenditori tutti italiani messi insieme da Banca Esperia. Quindi lì abbiamo fatto il primo round che ci ha permesso di svolgere l'attività di ricerca preclinica e di metterci in condizione di iniziare la fase clinica, vale a dire di iniziare ad andare sull'uomo con la nostra terapia genica antitumorale già nel 2018 e più recentemente abbiamo fatto un secondo round di finanziamento dove abbiamo trovato altri investitori, in questo caso imprenditori italiani, svizzeri e inglesi, e qui abbiamo raccolto altri 7 milioni di euro. Quindi nel complesso abbiamo raccolto da investitori privati, family office e imprenditori 17 milioni di euro. Che è una cifra importante per una startup. Vi ha aiutato Banca Esperia nel primo round e nel secondo? No, nel secondo round è venuto un po' più da sé, un po' più sui risultati che abbiamo portato fino adesso, tra cui anche un accordo con una delle più grandi farmaceutiche del mondo, di una delle più grandi biotech del mondo che si chiama Amgen, che è quotata al Nasdaq, che capitalizza più di 120 miliardi. Quindi diciamo che nel prosieguo dell'attività abbiamo incontrato vari imprenditori, tra cui la famiglia Rovati, che sono gli ex proprietari della Rottapharm, che era una grande azienda farmaceutica italiana, e un'altra famiglia invece nota più per il lusso, che è la famiglia Ferragamo, è un altro dei nostri sostenitori di questo secondo round. Allora, quanti dipendenti avete e quando iniziate a fatturare e diciamo, il giro d'affari atteso? Ok, allora noi insistiamo su, abbiamo dipendenti diretti che siamo in 5, ma insistiamo sul gruppo di ricerca del professor Naldini e del suo laboratorio, quindi di volta in volta utilizziamo i ricercatori, i tecnici di laboratorio che ci servono per portare avanti le attività. Per quanto riguarda invece il fatturato, il biotech è un settore molto particolare per cui si fanno investimenti enormi di ricerca e sviluppo, quindi questi 17 milioni, la stragrande maggioranza va in attività di ricerca e di sviluppo del nostro prodotto, ma le biotech portano avanti i farmaci o i prodotti terapeutici fino ad un certo punto, fino alla fase clinica, senza mai fatturare, per poi cedere, se hanno ottenuto risultati interessanti di efficacia e di sicurezza sull'uomo, di cedere questo prodotto a o andare in partnership con una grande società farmaceutica. Quindi a quel punto lì realizzano la propria exit, quindi il proprio valore. Per curiosità, nel salutarla, quanti anni ha lei, i suoi collaboratori, insomma, il gruppo di lavoro? Sì, io ho 44 anni, i ricercatori mediamente sono molto giovani, il professor Naldini ha qualche annetto in più di me, poi gli altri co-founder della società sono intorno ai 40 anni. Allora, in bocca al lupo a lei, ai fondatori, ai dipendenti, bravi anche nella raccolta fondi. Grazie quindi a Pierluigi Paracchi, fondatore e amministratore delegato di Genenta. E da una startup, quindi azienda appena nata, avete sentito anche però quanti fondi ha raccolto attraverso una banca che si fa da coordinatrice, ma poi i fondi sono privati, quasi un crowdfunding, e poi invece fondi più mirati e in un settore in grandissima espansione come la ricerca genetica applicata, andiamo a un settore che più tradizionale non potrebbe essere, non che questo sia, diciamo, una diminuzione, anzi, e mi riferisco al settore dell'acciaio, dove l'Italia resta al secondo posto come produttore europeo. C'è la Germania che l'anno scorso ha prodotto 42 milioni di tonnellate, noi abbiamo fatto 23 milioni e mezzo di tonnellate in aumento, adesso le commenteremo. Certo, inarrivabile la Cina con 808 milioni di tonnellate, il Giappone 104, poi c'è India, Stati Uniti, Russia, Corea del Sud, Germania, Turchia, Brasile, Ucraina e appunto l'Italia. Ma a livello europeo siamo noi e la Germania. La Germania ha una produzione quasi doppia rispetto alla nostra. Ma è stata anche l'occasione, l'assemblea di Federacciaio oggi, abbiamo ascoltato alcune dichiarazioni del presidente di Confindustria Boccia al suo arrivo all'assemblea, relative però alla congiuntura, alla manovra finanziaria che si sta approntando. È stata l'occasione sia per fare un bilancio del settore che per capire anche le sfide. Una su tutte, quando si parla di acciaio, è chiaro che la sfida dei dazi / protezionismo, quando sono dazi a tutela, quando è protezionismo, è un tema d'estrema attualità. Allora ringrazio intanto per averci raggiunto nei nostri studi, perché è appena finita l'assemblea qui all'auditorium del Sole 24 Ore, il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Buonasera. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Dunque, Gozzi, andiamo sul traffico. Poi vorrei capire due cose. Intanto se anche nel vostro settore la crescita si stia consolidando, che non vuol dire che siamo tornati ai livelli del 2007, inizio 2008, ma se c'è un consolidamento. E poi invece che cosa chiedete, ascolteremo anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, presente alla vostra assemblea, in tema di protezionismo e concorrenza sleale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Presidente Gozzi, andiamo sui dati congiunturali ma anche, diciamo, di tendenza. Più 1,8% la produzione d'acciaio rispetto all'anno scorso, cioè 2016 su 2015. Avete sentito anche voi un impatto, in questo caso positivo, dei benefici iperammortamento e superammortamento presenti nell'industria 4.0? E aggiungo anche un'altra domanda in coda: che cosa vi attendete a questo punto dal fatto che si sia sciolta la vicenda Ilva? L'acciaio è un indicatore di congiuntura, quindi c'è quasi una specularità tra la crescita del PIL italiano e l'aumento della produzione di acciaio, proprio a conferma di questa regola. Quindi ci sono fattori, diciamo così, macroeconomici generali che favoriscono il settore. Sicuramente sono in corso investimenti che sfruttano il piano Industria 4.0 del Mise, perché anche la siderurgia, ad onta del fatto che dicevi settore più tradizionale, non c'è, però sta investendo tantissimo in big data analysis e in intelligenza artificiale, e credo che nel giro dei prossimi anni ci sarà un'accelerazione fortissima. C'è già qualcuno, sta nascendo il primo laminatoio governato dall'intelligenza artificiale, che è di Banzato, cioè Rie Venete, a Padova, fatto da Danieli. Credo che questo tipo di operazioni in processi che hanno da controllare una moltitudine di dati per garantire la qualità, per garantire il servizio al cliente, eccetera, si svilupperà molto, e questo sarà anche un'occasione per fare arrivare professionalità nuove, giovani, all'interno delle nostre fabbriche. Dicevo anche la parte industria 4.0, perché quando parliamo di investimenti, iperammortamenti e superammortamenti, uno è vale solo se tu digitalizzi, l'altro invece vale in generale. Il vostro è un settore non solo labor intensive, ma anche, diciamo, macchinario intensive, capital intensive. No, è così, naturalmente si stanno sfruttando entrambe le misure, nel senso che proprio perché è un'industria capital intensive c'è una quota di capex, di investimenti, che tutti gli anni tu devi fare inesorabilmente, perché se non li fai perdi competitività e spazio di mercato. In più c'è questo innesto dei temi digitali che aiutano a governare meglio i processi e il mercato. La parte che riguarda invece come l'acciaio è da sempre, lei diceva giustamente che è congiunturale, un termometro della ripresa o della recessione, è anche da sempre il primo, non dico baluardo, ma il caso più idealtipico che abbiamo quando parliamo di dazi o non dazi. Perché? Perché ricordo benissimo negli anni passati le battaglie dei produttori anche italiani contro l'acquisto dei rottami ferrosi e la Cina accusata di produrre in dumping. Dumping non c'entra nulla con la concorrenza, vuol dire che tu produci sotto prezzo di costo perché hai lo Stato che ti assiste e assiste anche le banche, ed è chiaro che sbaragli qualunque concorrenza corretta. Altra cosa è fare un buon acciaio a prezzo più basso per altri motivi e piazzarlo sui mercati. Quella si chiama concorrenza naturale, ben venga. Allora, si discute molto di protezionismo. Da un lato in Europa il tema è più legato a un decreto, a una legge italiana, vedremo se di carattere europeo, antiscorrerie, cioè di capitali che arrivano, comprano e vanno a toccare anche settori strategici. Si discute invece di protezionismo molto negli Stati Uniti da quando c'è Trump. Sentiamo il Presidente del Parlamento Europeo, la vostra assemblea poco fa, è intervenuto ma aveva già fatto una dichiarazione al microfono della nostra Anna Marino, e ha in qualche modo ricalcato il suo allarme: un'Europa troppo aperta forse rispetto al protezionismo americano. L'Europa ancora non ha deciso, quindi bisogna vedere forse la Commissione europea, il Parlamento europeo certamente ha votato contro il riconoscimento dello Stato di economia di mercato per la Cina, il Parlamento europeo ha una posizione molto chiara anche sulle misure antidumping, il Parlamento europeo vuole che si mantenga l'onere della prova a carico di chi investe da fuori Europa, quindi questo per noi è fondamentale e il relatore Cicu sta difendendo questa posizione, poi ci sarà un'altra riunione del trilogo all'inizio di ottobre e speriamo che si possa concludere. Quindi non il protezionismo, ma comunque misure di protezione invece dell'Europa? Il contrario è il protezionismo, noi vogliamo il protezionismo forse da qualche altra parte del mondo, non da parte nostra, noi vogliamo che ci siano regole uguali per tutti, che ci siano regole eque che permettano alla nostra industria di essere competitiva in un libero mercato, certamente non possiamo pretendere alla nostra industria di competere sui prezzi quando da un'altra parte chi compete con noi non rispetta le regole sul lavoro che abbiamo noi, non rispetta il lavoro minorile, quindi ha un costo del lavoro che è assolutamente più basso del nostro, quindi i costi della produzione sono inferiori, ma noi abbiamo dei valori da difendere, quindi come capita negli Stati Uniti siamo costretti ad adottare misure antidumping. Allora, va detto che in realtà era il 10 agosto, quindi un mese, poco più di un mese fa, quando l'Unione Europea ha approvato dei dazi antidumping provvisori ad alcuni tipi di acciaio cinese, importazione di acciai anticorrosione dalla Cina, dopo un'inchiesta avviata a dicembre 2016. Presidente Gozi, ha ragione Tajani nel dire, sicuramente l'Europa non può essere accusata di protezionismo, casomai sono altri, ma visto che poi ci sono anche gruppi indiani, penso al gruppo Mittal che non solo ha comprato Arcelor ma anche l'Ilva, dove si pone il confine tra tutela di una concorrenza sleale, scorretta e protezionismo che a nostro avviso farebbe fare un passo indietro a tutti se iniziamo a alzare le barriere, poi noi che siamo esportatori, dopo la Germania siamo il secondo paese per esportazione manifatturiera, ne pagheremo ampiamente le conseguenze. Guarda, c'è un passaggio della mia relazione di oggi in cui naturalmente rivendico il nostro concetto di economia di mercato, cioè noi siamo uomini di mercato, vogliamo i mercati aperti e sappiamo che dalle chiusure regionali ne viene un documento per tutti. Però essere uomini di mercato e di mercati aperti non significa essere esposti alle scorribande di chi crede di poter, sgomitando con aiuti di Stato, dumping, eccetera, fare concorrenza sleale. Il tema è regole di commercio internazionale giuste. E qui c'è un po' di ambiguità europea, nel senso che in realtà l'Europa su queste regole oscilla. E perché oscilla? Perché ci sono interessi economici di alcuni paesi, questa questione cinese tipica, in particolare ci sono interessi tedeschi e interessi francesi. I francesi tutelano i loro armamenti ed vogliono continuare a esportarli in Cina, i tedeschi tutelano la loro automobile che esporta moltissimo in Cina, e quindi nei confronti di un tema che gli inglesi direbbero crystal clean, cioè è limpido come il cristallo, e cioè che la Cina non è un'economia di mercato, confondono un po' le carte e cercano di trovare un compromesso al ribasso che questa nuova regola, che dovrebbe essere dell'analisi dei casi di antidumping, nei quali paradossalmente l'onere della prova è spostato, cioè non sono i cinesi che devono dimostrare che non esportano, i cinesi o gli iraniani o i brasiliani o gli ucraini che esportano in dumping, ma siamo noi europei che dovremmo, non si sa con quale polizia o con quale guardia di finanza, con quali strumenti investigativi, con i caschi blu dell'ONU che vanno a vedere nelle imprese cinesi come sono i costi, cioè è ridicola questa cosa qua, no? È talmente ridicola che evoca purtroppo questa grande ambiguità e questo conflitto di interessi grosso all'interno dell'Europa, che bisogna incominciare al di fuori della retorica europeista a dichiarare. Io non credo che si faccia bene all'Europa mettendo sotto il tappeto i contrasti veri che esistono tra le varie economie nazionali. Presidente Gozzi, stiamo chiudendo dove siamo partiti, perché nel parlare della vicenda Ryanair, quello che emergeva è che la Corte di Giustizia ha detto no, i diritti del lavoratore valgono nel paese in cui tu lavori, tu, e non solo i diritti irlandesi. Questo era un vantaggio competitivo enorme per Ryanair rispetto ad altre compagnie di bandiera. Ricordavamo quanto su questa vicenda vi siano state anche altre, c'è la decisione, la discussione sulla web tax, in modo che i colossi del web non possono pagare tasse risibili in Irlanda, ma là dove fatturano, e quindi anche questa è una forma di concorrenza sleale. E c'è quanto ricordava lei, ossia qualcuno mi scrive perché nel tessile, ne abbiamo parlato anche anni fa quando si trattò del tessile, dove i paesi, in questo caso non tanto la Germania e la Francia ma i paesi scandinavi del nord Europa, avevano un grosso interesse perché non sono produttori, sono importatori netti, casomai marchiano dopo, a non avere dati, a non avere avere una politica commerciale molto accomodante, anche quasi in dumping sul tessile. Invece l'Italia, e assieme alla Spagna in parte, difendeva la produzione manifatturiera locale. Quindi sono d'accordo con lei che un conto è parlare di Europa e difendere Europa, e un conto è non mettere in evidenza che se ti fai concorrenza internamente o direttamente come sulla web tax e i diritti dei lavoratori, o indirettamente perché non vuoi rompere le scatole della Cina perché devi esportare lì e accetti che ci facciano concorrenza sleale, questa cosa va risolta, perché sennò poi l'Europa non funziona con vasi di coccio tra vasi di ferro, Presidente. Per cui in bocca al lupo a lei, a tutte le aziende produttrici, ai numeri che farete quest'anno, e vediamo quando vi attendete una risposta dall'Europa, visto che oggi ha visto anche il Presidente Tajani. Sulla questione dell'ILVA o sulla questione... No, sulla questione del dumping. È rapida, nel senso che il trilogo è stato bloccato dall'Italia e stanno cercando un compromesso. Credo che il governo italiano debba sentire la sua voce al massimo livello per trovare, siamo uomini anche qui pragmatici, capiamo che questa vicenda finirà con un compromesso che non sia un compromesso a ribasso. Quindi svantaggioso per l'Italia. Grazie appunto anche al presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.